Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. E poi deve accadere qualcosa che ti deve dare la forza in un momento in cui la paura è più grande. Dirlo a tua moglie, dirlo ai tuoi parenti, dirlo ai tuoi amici, che ti diranno tutti: stai facendo una cazzata. Licenziarsi non è una cosa semplicissima, niente di impossibile, intendiamoci, però emotivamente si tratta di passaggi molto forti. Storie di un azzardo felice e di una sfida tra ghiacci in una puntata che si intitola Tempismi imperfetti. Ok, andiamo. No, stiamo ancora un po'. Bello però qua, Mi piace. Proprio bello, poi col tempo così, no? A me piace quando ci sta il mare che è un poco più... così, ma bella, come, senta, che non ci mettiamo un po' più in là per loro? Perché, ti mettono in imbarazzo? No, cioè, non in imbarazzo, però, non lo so, si stanno baciando, siamo noi qua troppo vicini, non lo so, come, cioè, se ci stavamo baciando pure noi, allora... Come? Ho fatto una battuta, no? Poiché loro stanno baciando. Ho detto se ci stavamo baciando pure noi, allora era... cioè che loro si baciano, allora eravamo due coppie. Niente, una cosa così, che... cioè se ci baciavamo e... E su, non fare la scena, dai. Va bene Alberto, andiamo, va. Bravo, ci sei riuscito, finalmente. È sempre un piacere, è sempre una sorta di musica quella che esce dalla voce di Massimo Troisi che abbiamo sentito in apertura di puntata. Questo era un estratto di Scusate il ritardo in cui lui è con Giuliana Dessio e c'è tutto questo temporeggiare e cercare di strategizzare il suo desiderio di baciarla e alla fine appunto ce la fanno fino a che non arrivano i due che li applaudono e la cosa non fa molto piacere né a lui né a lei. Vi abbiamo fatto ascoltare questo inizio di puntata, questo film, perché la puntata si intitola Tempismi imperfetti. Oggi vi raccontiamo storie di persone che fanno delle scelte oppure dedicano la sua vita addirittura a qualcosa e purtroppo sbagliano il timing, sbagliano il tempo. Quella è un'arte, quella è una roba che c'è gente che ci nasce con la capacità di trovare la scansione giusta delle cose e altri invece no. I comici, ad esempio, sono semplicemente dei raccontatori in grado di conoscere le dinamiche, la matematica dei tempi. Non, sapete che quando un comico è molto bravo spesso si dice ha dei tempi perfetti. Ecco, più o meno di quello parliamo anche nella vita, quando capitano delle cose che ci sfiorano o che ci intercettano e delle volte arrivano al momento giusto per cui uno fa una scelta legato al lasciarsi o al fidanzarsi e deve andare a vivere in una casa, quella casa si libera oppure si occupa la propria casa, trova un'altra casa in un altro posto e lì incontra la donna della sua vita. Insomma, sono incastri quelli che accadono nella vita e oggi vi racconteremo due storie che parlano proprio di questi temi. La prima storia però, quella di Diego, che in teoria sembra la storia di un tempismo sbagliato, lui ce la racconterà esattamente al contrario, come la storia di un tempismo perfetto. Io vorrei spendere due parole su questa storia, non sul racconto, perché il racconto ve lo farò tra pochissimo, ma vi chiederei di ascoltare il tono e le parole che usa Diego in questo racconto, perché è totalmente antiretorico il suo racconto, soprattutto per un tema come questo. Di recente, negli ultimi anni, c'è una grande onda, una grande wave, che è così definita motivazionale, per cui esistono dei coach, esistono delle persone che hanno esperienze spesso volentieri nel mondo dello sport o dell'esplorazione, ad esempio, che si ritrovano a raccontare a delle persone che non faranno mai sport e non faranno mai esplorazione, ma nella propria vita, nel proprio lavoro, vogliono ottenere dei risultati. e il risultativismo è una vera e propria religione, cioè quella forma di credo per cui credici e ce la farai, potrai fare tutto quello che vuoi nella vita, basta che tu lo vorrai. Ecco, io temo che queste cose possano essere molto dannose, perché non è così. Purtroppo non tutti possiamo fare quello che vogliamo. Se io decido adesso di voler fare l'astronauta a 45 anni, ecco, io credo proprio che non ce la farò mai. Se però per sbaglio una mattina mi sveglio con quella convinzione, non dico che la mia vita potrebbe rovinarsi, però probabilmente vivrei molto infelice. Ecco, quindi credo che quella forma di coaching possa essere pericolosa, perché il senso della vita è capire chi siamo e capire che cosa ci piace veramente, ma anche che cosa possiamo fare. Ed ecco, la storia di Diego, secondo me, da questo punto di vista è preziosissima, esattamente per questo motivo. È per questo che vi chiedo di ascoltarla con attenzione, perché il modo in cui racconta della sua scelta e il modo in cui lui prende quello che la vita gli porta, anche se il tempismo sembrerebbe sbagliato, secondo me è davvero esemplare. Benvenuti a Linee d'Ombra. Il 30 dicembre 2019 percorrevo per l'ultima volta il lungo corridoio della Palazzina Spagnola, un vecchio edificio di due piani affacciato sul porto di Napoli che accoglie gli uffici amministrativi dell'Università Partenope della città di Napoli. La luce filtrava dalle porte a vetro creando un effetto luce-buio che sembrava voluto chissà da quale direttore della fotografia. Due rampe di scale e avrei sentito per l'ultima volta il beep del badge che strisciava sull'orologio marcatempo. Pochi minuti e sarei stato libero. Il 30 dicembre 2019 erano le 2 del pomeriggio, attraversavo il cortile dell'università, calcavo il mosaico della Rosa dei Venti, chiudevo i conti con una parte della mia vita e ricominciavo. Ero entrato per la prima volta in quel posto che avevo 25 anni, prima addirittura di concludere i miei studi. Ne uscivo a 43 e avevo finalmente tutta la vita davanti. Quello era stato il mio ultimo giorno da impiegato statale, il mio ultimo giorno con un contratto a tempo indeterminato, di quelli che una buona parte degli italiani vede come un miraggio, un biglietto vincente della lotteria. Un tipico lavoro era un tipico lavoro impiegatizio, quindi la mattina entravo in ufficio e così aveva a che fare con queste carte, no? Queste carte che entravano nel mio ufficio, che uscivano, e io sentivo di dare un contributo minimo, perché io non vedevo il frutto del mio lavoro, cioè era complicato, invece io mi volevo trarne soddisfazione. A me non dava nessuna soddisfazione entrare in ufficio e maneggiare le carte, mandare le email, ma soprattutto io non riuscivo a stare in un contesto dove non vige la meritocrazia. Per me invece era diventata una schiavitù insopportabile. Un compromesso inaccettabile, una rinuncia ad essere me stesso per 1.200 euro al mese. Tanto valeva la mia vita, mi chiedevo spesso, 1.200 euro? O forse questa non era la domanda giusta? Non era questione di soldi. Avrei dovuto chiedermi, io sono questo? Io non ero questo, non l'ero mai stato. E ora, dopo 18 anni, sentivo che era giunto il momento che avevo tanto atteso. Ho ascoltato il mio cuore e ho lasciato che mi prendesse per mano. Licenziarsi non è una cosa semplicissima. A parte chi ti circonda ti vuole bene, che prova a dissuaderti perché ha paura che tu stia facendo una fesseria che ti costerà poi molto cara, perché stai buttando nella spazzatura una botta di culo che non ti capiterà mai più. Insomma, devi passare un periodo di preavviso, devi fare un colloquio all'ispettorato del lavoro e firmare un bel po' di carte. Niente di impossibile, intendiamoci, però emotivamente si tratta di cose piuttosto forti. Durante quel periodo la notizia era cominciata a circolare tra i corridoi dell'università. Qualcuno mi chiedeva se era vero, altri mi avvicinavano per un abbraccio e un saluto. Bravo, che coraggio, che palle che hai, lo farei anch'io, mi dicevano. Io a tutti avrei voluto rispondere che non era coraggio, era solo disperazione. Dicevo basta perché mi era impossibile andare avanti. Non avevo più la forza ed ero stato troppo vicino al crinale scivoloso della depressione per poter accettare ancora di essere ciò che non ero mai stato. Potevo mai ammalarmi per un lavoro che non mi piaceva? Ogni mattina era come andare a scuola nel giorno del compito di latino o di matematica. Non era coraggio, ripeto, era sopravvivenza. Ma c'era dell'altro. Get out your measuring cups and we'll play a new game. To the front of the class, and we'll measure your brain. We'll give you a complex and we'll give it a name. Get out your measuring cups and we'll play a new game. Can't have the cream when the crop and the cream are the same. Liquid gas, no more than the glass will contain. When you talk about the hand of glory, a tale that's rather grim and gory. Is it just another children's story? It's been declawed. In the tales of brothers grim and gory, you've been outlawed. Da 6 mesi c'era una persona nella mia vita a cui un giorno avrei voluto lasciare un'eredità importante. Una ricchezza che non era quella materiale, ma che aveva a che fare con la vita e il modo in cui la si vuole vivere. Mi piace pensare che mia figlia Sara, che oggi ha appena 1 anno, da adulta, pensando al suo papà, trarrà forza ed esempio dalla mia decisione. Per provare ad essere se stessa, per provare ad essere felice. Lo so, Sara mi avrebbe amato lo stesso anche da impiegato. Sarei stato il suo fidanzato, il suo esempio e poi anche il suo antagonista una volta raggiunta l'adolescenza. I figli non ci giudicano per il lavoro che facciamo. Ma io, da infelice, sarei stato un buon padre. Io non sono coraggioso, non mi sento coraggioso. In passato non ho mai avuto nemmeno il coraggio di lasciare le mie fidanzate quando l'amore finiva. Ho sempre aspettato che lo facessero loro. Ma qui si trattava di qualcosa di diverso e sapevo che era giunto il momento. Lo avevo aspettato e avevo fatto un percorso per giungere fino a lì, fino al traguardo che mi ero posto, e non avevo intenzione di fermarmi a 100 metri dalla linea d'arrivo. In quei 18 anni avevo quello in mente: licenziarmi e cambiare vita. Non nessuno può andare domani mattina al proprio capo a licenziarsi, nessuno. Cioè, è importante creare dei presupposti. Poi c'è un momento, c'è qualcosa, che una motivazione forte che te lo fanno maturare. A me è stata la nascita di mia figlia e la necessità di insegnare qualcosa a mia figlia. Ma io nei 18 anni ho lavorato per andare via. Ho fatto questo concorso di guida turistica, che era una cosa che riusciva a conciliare il mio carattere con la mia formazione, che era una formazione umanistica. Io ho fatto un dottorato in storia e la guida turistica riusciva a, in qualche maniera, ad essere un lavoro nel quale io mettevo poi in atto, declinavo quelle che erano le mie competenze. Mi sono abilitato all'insegnamento nella scuola e poi come guida turistica. Avrei messo a frutto la mia formazione umanistica e la mia capacità di raccontare luoghi e persone, e per un po' l'ho fatto. Poi, inatteso, il coronavirus, che ha bloccato tutto e il turismo in primo luogo. Ora i miei ex colleghi, quando mi incontrano, mi dicono: Diego, ti ho pensato tanto, mannaggia, chissà se è stato giusto, sarebbe bastato qualche mese. Eppure sapete, nonostante tutto, nonostante i miei progetti siano andati a monte, mai, e dico mai, mentre mi arrivavano le disdette a visite guidate già programmate, mai mi sono pentito della mia scelta. Perché non è mai questione di soldi, è questione di essere felici. E io adesso, senza stipendio, senza sicurezza, senza nemmeno poter chiedere un mutuo, voglio dirlo piano. Io adesso sono felice. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. To be a different man, time may change me, but I can't trade. Il titolo della puntata di oggi, che è Tempismi imperfetti, in realtà, mi rendo conto, è un punto di vista. Perché la storia di Diego è una storia che potrebbe invece essere raccontata come una storia di tempismi perfetti, anche se, come lui stesso ci racconta, per le persone intorno e probabilmente per molti ascoltatori anche che hanno sentito questa storia, il primo significato del titolo potrebbe sembrare quello più corretto, ma secondo me, parlandone con Diego, scopriremo che non è così. Pronto? Ciao Diego, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come stai innanzitutto adesso, Diego? Come ti senti? Come va la situazione? Insomma, come va? No, molto meglio anche perché si ricominciano a vedere i turisti, la città inizia a muoversi e quindi bene, insomma, sono molto contento per tutti e per tutto, devo quindi dire. La prima domanda che mi viene da farti e che probabilmente si fanno un pochettino tutti quelli che ascoltano è ufficiale, non te ne sei pentito? No, assolutamente okay. No, assolutamente no. Senti, io vorrei entrare un po' nel merito del tuo passato, cioè di quei 18 anni che davvero io li ho percepiti tutti, in tutta la loro pesantezza, quando dici era come avere un'interrogazione a scuola tutti i giorni. Io credo che tutti si ricordino la condizione di quando ti alzavi la mattina, dalla sera prima e dicevi oh mamma, oggi c'ho l'interrogazione e il panico, la roba, e l'ora che si avvicinava. Veramente è stato così tutti i giorni per 18 anni? Sì, Matteo, io sono arrivato al punto di organizzare delle visite mediche, di andare a donare il sangue, pur di non andare al lavoro, che è una cosa brutta da dire, perché un atto di generosità diventa poi un atto di egoismo, ma lo devo ammettere, era così, perché per me era troppo pesante andare in un posto e dover fare delle cose che non corrispondevano affatto a quello che io ero. E questa cosa mi annientava. Ma era legato quindi proprio a quello che facevi, non ai colleghi o ai capi che vessavano? Guarda, io ti dico, ho fatto questo concorso, ho partecipato a questo concorso perché avevo un rapporto molto controverso con mio padre e per non fare l'ennesimo litigio con mio padre, anche spronato da mia madre, io ho partecipato a questo concorso pubblico che poi mi sono trovato a superare in maniera inattesa. Io ho cominciato questo lavoro in una pubblica amministrazione, no? Il famoso posto fisso, quello che Zalone, quello che di Zalone dice, il posto fisso non si lascia mai, era proprio il posto fisso. In 18 anni, come puoi immaginare, io ho cambiato vari uffici e il mio entusiasmo è stato anche diverso, perché chiaramente all'inizio io mi trovavo finalmente ad avere uno stipendio, a guadagnare, era un contesto nuovo, io ho incontrato la Montalcini, ho portato sotto il braccio la Montalcini, quindi non tutto era negativo e non tutto era brutto, però poi durante tutto questo tempo io sognavo sempre altro, sognavo qualcosa che rispecchiasse più il mio modo di essere, sognavo un lavoro che potesse essere anche una passione. Certo. E quindi i colleghi, sì, la parte più difficile era quella di dover sottostare a persone di cui tu non avevi stima. Senti, Diego, so che per te il fatto che tua figlia, Sara, come sta innanzitutto tua figlia? No, Sara sta benissimo, adesso è al parchetto, in verità. Quindi... Però io so che il fatto che tua figlia sia una donna, per te è importante e fa parte del processo di maturazione di questa decisione, perché tu dici, lo raccontavi ad Anita, essere donna è più complicato e quindi io voglio che lei sappia che deve seguire ancora di più i suoi desideri e le sue volontà. Esattamente. Allora, quando è nata mia figlia e io ho avuto la fortuna di assistere a questo parto che è stato molto bello, a volte venuto di notte, e chiaramente non proprio in quel momento ti scatta qualcosa dentro, ma con i giorni ti rendi conto della genitorialità e della paternità, che è una cosa difficile, una cosa complicata. Allora, come fai ad essere un buon genitore? Questa è una bella domanda, nessuno lo sa. Però quello che puoi fare è dare un indirizzo e tracciare un sentiero, una strada. Io sono cresciuto in mezzo a donne e ho avuto questa bambina, questa donna. mi rendo conto di come sia difficile per una donna deve faticare molto di più e non è una frase fatta. Io sono spesso chiesto, quando mia figlia crescerà e smetterò di essere il suo fidanzato, il suo supereroe, cominceremo a scontrarci, sarà più difficile per lei ascoltarmi, ma quello sarà il momento dell'adolescenza in cui forse una donna comincia a dover sgomitare. E allora io volevo che lei almeno avesse il mio esempio, un qualcosa che anche quando ci scontreremo è incontestabile, è oggettiva, cioè il fatto che io ad un certo punto ho deciso di inseguire la mia felicità per dare a lei la dimostrazione ed un segnale. Figlia mia, non accettare i compromessi. Non va bene che sia una relazione amorosa, che sia una relazione professionale. Non ti accontentare di quello che hai, ma prova a sognare di poter ottenere quello che desideri. Quanti anni È hai, Diego? quello Perdonami, quanti anni hai? 44 Ah, ok, adesso, sono perché un papà un po' vecchietto. a chi lo dici? Diego, io purtroppo ti devo salutare, però è stato davvero prezioso. Sono felice che le ultime storie di questa prima stagione di Linea d'Ombra abbiano anche una storia come la tua, che si sì, parla di una linea d'ombra, ma che in realtà è quasi una linea di luce, una linea molto luminosa, quella che tracci. E io davvero ti faccio il più grande in bocca al lupo e spero di avere una tua nuova storia, magari la prossima stagione che riguarda il tuo nuovo lavoro. Grazie mille, Diego. Speriamo, grazie a te, In bocca al ciao. lupo, davvero, a presto. Grazie a Diego per la sua storia e per il suo modo di raccontare le cose, senza eccessiva retorica. Noi chiaramente lo sapete, lo diciamo sempre, le storie per noi sono ingiudicabili, le storie sono dei pezzettini di realtà, quindi noi ci guardiamo molto bene dal dare giudizi e dare opinioni personali. Però quando sento storie come queste voglio umanamente e personalmente molto bene alla persona che la racconta, perché è vero che, come dice lui, è una questione di sopravvivenza e non di coraggio. Ma c'è dentro una grossa fetta di umanità in questa storia ed è arrivata, credo, tutta, grazie proprio al suo racconto. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra, Radio 24. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. Robert Falcon Scott era un ufficiale di marina britannico. Nato da una famiglia modesta, si era convinto che la sua unica possibilità fosse quella di tradurre in azioni un proposito di vita decente. Entrò nella Royal Navy a 14 anni e nel 1900 fu posto al comando della spedizione inglese in Antartico. Lasciata l'Inghilterra nel 1901 in compagnia di Edward Wilson ed Ernest Shackleton, tentò di raggiungere il Polo Sud, raggiungendo la latitudine più meridionale mai toccata prima dell'ora. Secondo il capo spedizione, l'impresa fallì per colpa dei pony cui avevano affidato le slitte. In realtà erano stati gli errori di preparazione a minare il successo della spedizione. Tra bufere, scarse razioni di cibo, cecità da neve e scorbuto, i tre riuscirono comunque a raggiungere l'82esimo parallelo, fermandosi a circa 480 km dalla meta. La spedizione fece ritorno in patria nel 1904, ma la sfida era lanciata. In questa puntata che si intitola Tempismi imperfetti, la seconda storia di oggi è esattamente la storia di Robert Falcon Scott. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Nel 1910 Scott organizzò una seconda spedizione in Antartico con l'obiettivo di essere il primo uomo a raggiungere il Polo Sud. Scott salpò il 1 giugno 1910 da Cardiff, soltanto un mese dopo essere diventato padre per la prima volta. La sua nave era la Terra Nuova. Quel giorno era convinto che la conquista del Polo Sud sarebbe stata soltanto un'impresa straordinaria. Ignorava che si sarebbe ben presto trasformata in una gara a chi arrivava primo. Lo scoprì a Melbourne, quando trovò ad aspettarlo un telegramma che cambiò la posta in gioco. A inviarlo era stato il marinaio norvegese Roald Amundsen. «Vado a sud», diceva, firmato Amundsen. Era il 12 ottobre 1910 quando Scott lesse quelle quattro scarne parole che cambiarono il suo destino. Scott sapeva che Amundsen aveva scelto di conquistare per primo il Polo Nord e non il Polo Sud, ma non sapeva che gli americani Robert Peary e Frederick Cook lo avevano preceduto e che per questo aveva deciso all'insaputa di tutti di cambiare rotta e di provare a conquistare l'estremità meridionale del globo. Amundsen non disse nulla a nessuno. Solo quando la sua nave si fermò a Madeira, l'esploratore rivelò il suo vero obiettivo all'equipaggio. «Chi non ci sta può scendere», disse. «Questa è l'ultima fermata prima dell'Antartide». Da quel momento fu chiaro a Scott che il raggiungimento del Polo Sud si sarebbe trasformato in una sorta di gara che arrivava primo. Entrambi gli esploratori sapevano a che cosa sarebbero andati incontro ed erano preparati al meglio. Il norvegese arrivò in Antartide il 14 gennaio 1911 e allestì il campo base nella Baia delle Balene, 100 km più vicino al polo rispetto a Scott. Studiò da vicino gli Inuit, dai quali acquisì l'abbigliamento e le conoscenze, e lanciò la sfida con 5 uomini, 4 slitte e 52 cani groenlandesi. Scott si affidò invece ancora ai pony, una decina, oltre che a 24 cani, 16 uomini, 12 slitte e 2 motoslitte. Ma tanto i cavalli, ancora una volta, quanto i motori delle motoslitte si fermarono per sempre prima della meta, piegati dal freddo e dalla fatica. La gara si chiuse in favore del norvegese. Amundsen raggiunse il Polo Sud in 57 giorni, il 14 di dicembre del 1911, procedendo di oltre un mese Falcon Scott. Questi, quando finalmente ci arrivò, stremato, vide 4 bandiere norvegesi e una tenda con dentro 2 messaggi, uno in inglese e uno in norvegese, indirizzati a lui. «Il peggio o quasi è accaduto», scriverà poi l'esploratore inglese nel suo diario. I let the beast in too soon, I don't know how to live without my hand on his throat. I fight him always and still. Oh darling, it's so sweet you think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know, and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. Maybe soften your palm, but I'll soon go hungry for a fight, and I will not let you win. Disprove your faith in me. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Sometimes il viaggio di ritorno in patria fu una tragedia e si concluse con la morte di tutti i partecipanti. L'ufficiale Edgar Evans morì in seguito ad una caduta. Il capitano Lawrence Oates sacrificò la sua vita sperando così di salvare i suoi compagni. Henry Bowers, il dottor Edward Wilson e Scott perirono di fame e di freddo il 29 marzo 1912 a soli 18 km da un deposito di approvvigionamento di emergenza. I loro corpi, insieme a preziosi documenti e campioni lasciati da Scott nella sua tenda, sono stati trovati da una spedizione di ricerca quasi 8 mesi più tardi. Accanto al corpo di Robert Falcon Scott furono ritrovati anche i diari che ogni giorno aveva compilato fino all'ultimo. «Vi dico questo», scrive, «se siete avidi di conoscenze e siete capaci di esprimere fisicamente questa vostra avidità, esplorate. fossimo sopravvissuti, avrei avuto per voi un racconto sull'ardimento, la resistenza e il coraggio dei miei compagni, che avrebbe commosso il cuore di ogni britannico. Ma le cose sono andate diversamente. Non c'è stato lieto fine. Scott e i suoi non tornarono mai indietro e la loro morte ha offuscato in parte anche la conquista di Amundsen. Lo stesso esploratore norvegese, 17 anni dopo, precipiterà in mare con un aereo durante le ricerche di Umberto Nobile, disperso nell'Artico con il dirigibile Italia. Ma se Robert Falcon Scott sia passato alla storia come un eroe oppure uno sconfitto, il dibattito è in corso ancora oggi. Per lo scrittore Roland Anford, autore di un contestatissimo saggio, il capitano non era altro che un perdente. Portò alla morte il suo gruppo e perse la vita lui stesso, scrive, peraltro arrivando al Polo Sud per secondo. Ma nonostante questi autorevoli pareri, Scott in Inghilterra resta un'icona venerata e l'Università di Cambridge considera i suoi studi sul clima e le sue mappe della regione di valore inestimabile. I più importanti della prima metà del Novecento, dicono. Quello che è certo è che Robert Falcon Scott è stato un uomo partito per un viaggio che non sapeva alla partenza dove l'avrebbe portato, consapevole che sono i desideri, in vasta scala, a fare la storia. Insomma, parliamo di esplorazioni, ma parliamo di tempi imperfetti e di cose che si accavallano quando non dovrebbero accavallarsi. La storia che vi abbiamo raccontato, la storia di Robert Falcon Scott e di Roald Amundsen, è una storia piuttosto conosciuta, raccontata anche da diversi testi. Ne l'abbiamo letta in un articolo molto bello di un sito che si chiama Atlas Obscura. Ora ascoltiamo il traffico, le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale qui a Linea d'Ombra. Ora rilassatevi e state un anno in posizione Y-by Flex. È un'offerta così flessibile che la fanno anche a yoga. Mini Cooper Countryman Baker Street Edition con Y-by Flex, tua a 140 euro al mese, TAN 1,99, TAG 3,49 e dopo un anno decidi se rifinanziarla, cambiarla o restituirla. Da subito e solo fino al 31 luglio, incentivi mini su tutta la gamma, anche senza rottamazione. Scopri di più su mini.it. Linee d'ombra. Vi stiamo raccontando da ormai un paio di settimane una storia a cui ci siamo molto molto affezionati, la storia di Antonina Azzotti. Antonina Azzotti è una donna che ha raccontato nel suo diario tutte le fatiche della sua vita, lo ha raccontato, l'ha consegnato all'Archivio Idealistico Nazionale di Pieve Santo Stefano, che in virtù dei rapporti che abbiamo ormai da anni ce ne ha parlato, ce l'hanno consigliato di leggerlo, quindi Mauro se l'è letto e poi ha contattato, Mauro Pesce ovviamente, ha contattato Antonina e le ha chiesto se aveva voglia di partecipare a queste nostre storie seriali, perché la sua storia ha a che fare con diversi aspetti della vita, ha a che fare con la mafia purtroppo, perché suo padre è una vittima di mafia, viene ucciso nel 1946, Antonina ha 4 anni, 5 colpi di pallottole nella schiena, perché faceva il suo lavoro di falegname ma soprattutto di sindacalista, difendeva i diritti degli agricoltori che avevano bisogno di terre per lavorare e questo lo ha reso un uomo inviso alla mafia dell'epoca.

feci di nuovo la quinta elementare e poi le scuole medie. Grazie ancora ad Antonina Zotti, grazie a Mauro Pescio che racconta la sua storia, grazie a voi che ci ascoltate, grazie a Anita Panizza, a Paolo Corleoni e a Luca Micheli che sceglie le musiche che ci rendono ascoltabili tutte quante queste storie. Vi ricordo che oggi è iniziata la penultima settimana di questa prima stagione di Linee d'Ombra. Linee d'Ombra non finirà, continuerà con una selezione delle migliori storie di questa stagione e continuerà per tutto il mese di agosto e poi torneremo i primi di settembre, anzi credo il 31 di agosto se non sbaglio, credo sia proprio lunedì 31 agosto, torneremo sempre qui a raccontare storie nuove e originali, quindi mandateci nuove storie a Linee d'Ombra @radio24.it, continuate a farlo, ne state mandando tantissime, noi siamo molto molto felici, ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.